Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi ripartiamo dalle reazioni dei leader europei all'attentato di ieri sera a Berlino. Il servizio. Mentre ieri le sirene stavano ancora suonando e i soccorsi erano in pieno svolgimento, il cordoglio dei leader europei e internazionali correva su internet. Le immagini del tir sulla folla del mercatino di Natale di Berlino, che ricordano l'attentato di Nizza durante la festa nazionale del 14 luglio, vengono riprese sui social con l'hashtag Berlino e i profili ufficiali online delle autorità internazionali ribattono le reazioni. Dall'alto rappresentante europeo Federica Mogherini, che scrive su Twitter: notizie scioccanti da Berlino. L'Europa ancora una volta colpita, i nostri pensieri sono con tutte le vittime e le loro famiglie. Le fa eco sempre su Twitter il presidente francese François Hollande: esprimo solidarietà e cordoglio alla cancelliera Merkel, al popolo tedesco e alle famiglie delle vittime di Berlino. E anche Angela Merkel lancia il suo messaggio in rete attraverso il suo portavoce Stephen Siebert. Si è detta sgomenta per il possibile attentato a Berlino, siamo in lutto per i morti e ci auguriamo che i tanti feriti possano essere aiutati, ha scritto Siebert sul suo account Twitter. Dolore per la strage di Natale a Berlino, vicinanza a Angela Merkel e a tutto il popolo tedesco, scrive il premier italiano Paolo Gentiloni sempre su Twitter. Spregevole attacco al cuore dell'Europa, hashtag Berlino, lo twitta il ministro degli esteri Angelino Alfano. Si affida invece a una nota in serata il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, scioccato per quanto accaduto a Berlino e portavoce del suo cordoglio e di quello dell'esecutivo comunitario ai parenti delle vittime e ai feriti. Per una nuova ferita europea. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora cambiamo tema. Tra le novità del bilancio europeo per il 2017, approvato alcuni giorni fa dal Parlamento in via definitiva, c'è un progetto pilota finanziato dall'UE per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'avvio di un progetto pilota in decine di PMI e start-up in tutta Europa, che saranno così aiutate da esperti del settore nella trasformazione digitale della loro attività. Un emendamento presentato dall'onorevole Salini del gruppo dei Popolari Europei nasce da un confronto con i rappresentanti a Bruxelles della Confindustria italiana. Allora, sentiamo l'onorevole Massimiliano Salini al microfono di Anna Marino. Digitalizzarsi non significa mettere un po' di informatica nella propria azienda. Digitalizzarsi vuol dire migliorare i processi attraverso i quali l'azienda accetta la sfida della competitività. Significa gestire il magazzino o i magazzini in maniera armonizzata e con performance molto migliori. Significa conoscere le dinamiche del controllo di gestione in maniera puntuale, sistematica, costantemente. Significa, attraverso processi molto evoluti di analisi del profilo dei clienti, migliorare le proprie capacità di marketing. In che cosa consiste il progetto pilota e quant'è lo stanziamento? Prende il nome da una proposta che è arrivata da Confindustria. Si definisce Digital Enablers, significa cioè finanziare come Unione Europea, attraverso lo stanziamento per ora di 1,5 milioni di euro, 50 abilitatori digitali che verranno messi a disposizione gratuitamente delle piccole e medie imprese che, pagati dall'Unione, rispondendo al bando che verrà fatto, riusciranno ad ottenere vantaggio grazie a progetti buoni presentati. Il bando dove potranno trovarlo le imprese? Sui siti dell'Unione Europea, in particolare della Commissione, vi è un costante aggiornamento. L'avvio del progetto quando? Nel corso del 2017 sarà operativo, quindi entro la primavera, massimo entro l'estate, uscirà il bando e a quel bando potranno candidarsi le piccole e medie imprese, io spero soprattutto italiane. Bene, per oggi è tutto per questa edizione di Europa 24, aggiornamenti naturalmente nella cronaca, nei nostri GR e nei nostri appuntamenti serali dedicati all'Europa. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.